invitasti dall'altro alla retta. In un sol giorno, come tante sembianze, in te cangiasti. Dove gli scettri sol, dove i tesori che promettesti al cor? Ma sappi ch'io, nell'incostanze tue, sempre costante, confido nel valor del braccio mio.